Voci di piccola impresa. Storie di eroi italiani di Anna Marino. Benvenuti a Voci di piccola impresa, storie di eroi italiani. Partire da una base tradizionale e innovare. Molte imprese fanno di questo passaggio la leva per la crescita e non a parole. Come Tagina, ceramica d'arte, fondata nel 1972 dagli amici di una vita, Mario Moriconi, Angelo Barberini, Umberto Marco Tulli, Domenico Giovagnoli. Oggi Tagina, azienda produttrice di ceramiche per pavimenti e rivestimenti, rappresenta una delle più importanti realtà industriali nel panorama internazionale. Situata nel cuore dell'Umbria, a Gualdo Tadino, laddove nacque la ceramica artistica, Tagina, al di fuori del distretto industriale della ceramica, ha saputo imporsi sui mercati internazionali grazie alla capacità di innovare, partendo però da una base artistico-artigianale, quella appunto che rese famosa la ceramica della zona. Oggi Tagina è ancora guidata da Mario Moriconi, attuale amministratore delegato, e i soci fondatori sono ancora presenti in azienda. Domenico Giovagnoli, Umberto Marco Tulli con il figlio Andrea, mentre Angelo Barberini, recentemente scomparso, ha lasciato il timone a due figli. Giuseppe Barberini è oggi direttore generale di Tagina. L'idea è coata per qualche mese, forse un anno e mezzo, all'inizio degli anni 70, in un momento in cui l'industria ceramica locale di qui, di Gualdo Tadino, stava un po' ristagnando, nel senso che non c'era una chiara visione di investimenti per il futuro per garantire, cioè, lo sviluppo di questa azienda da parte del principale datore di lavoro della zona. E intorno al 1972, nell'agosto del 1972, l'idea di creare questa allora piccola azienda da parte di tutti questi dipendenti che sentivano la necessità di creare un futuro, prese corpo e fu fondata questa società con un capitale equivalente al valore di circa 20.000 euro di oggi. Inizialmente il gruppo era di 4, poi salito a 7 soci e infine a 10. Quali sono state le difficoltà, oltre a quelle del settore, che hanno trovato i soci fondatori all'inizio? Queste persone erano, con l'eccezione del presidente, che era titolare di un'impresa di autotrasporti, erano tutti dipendenti di un gruppo industriale, quindi Gualdo, che si occupava di piastrelle ceramiche e di commercio in materiale per l'edilizia. Questi ragazzi molto giovani, e ovviamente la difficoltà iniziale era quella di un gruppo che aveva a disposizione più o meno solo le indennità di fine rapporto come capitale, quindi è chiaro che l'impresa nasce come sottocapitalizzata dal punto di vista finanziario, ma ricchissima di idee e di volontà di emergere. Ecco, invece ci sono stati dei punti a favore dell'impresa. Oltre al fatto di farla nascere in squadra, quali sono stati gli impulsi che hanno dato la possibilità di far crescere il progetto? L'impulso fondamentale era intanto l'esperienza maturata in questa azienda e soprattutto il grande patrimonio di cultura ceramica che era propria di questi ragazzi allora e che veniva dalla storia di Gualdo Tadino, che è sempre vissuta in gran parte con l'industria o con l'artigianato ceramico. E la grande intuizione fu quella di non rincorrere i grossi gruppi industriali del Sassuolese, che in quel momento stavano crescendo a ritmi incredibili, ma di cercare un proprio spazio che valutasse la capacità creativa della lavorazione artigiana applicata però all'interno di un processo industriale tutto sommato abbastanza avanzato e all'altezza dei tempi. Quello che avete fatto è continuare la tradizione, ma anche svilupparla. Quali sono state le idee che man mano vi hanno fatto un po' ingrandire? All'inizio degli anni 80, il management aziendale, questi ragazzi compresero che si passava dalla fase nella quale la competitività era assicurata soprattutto dalla gestione dei costi e dall'organizzazione industriale, alla capacità di sviluppare dei prodotti e un marketing che puntasse molto sulla qualità più ancora che sulla concorrenza sui prezzi. Nacque così, fu una delle prime esperienze, e la collaborazione con la Laura Biagiotti, la stilista che praticamente arricchì questa capacità dell'impresa di proporre dei prodotti dal sapore artigianale, dal tocco, diciamo così, del lavorato a mano, con la sensibilità di un artista e di un designer che anche in quel momento rappresentava un po' il Made in Italy insieme a tutto il gruppo degli stilisti dei primi anni 80. Da questo nacque ovviamente tutta una serie di modelli che lanciarono Tagina con successo sul mercato internazionale. Pensi che è durata praticamente oltre 25 anni. Difatti, tanto per darle un'idea, l'azienda che nel 1981, quindi qualche un anno, due anni prima di iniziare la collaborazione con Laura Biagiotti, fatturava sì e no 4 miliardi allora, quindi circa 2 milioni di euro di oggi, nel 1986 già fatturava oltre 6 milioni di euro, fino ad arrivare poi con successi sempre sulla scia di questa filosofia, dei successi internazionali legati alla creatività e alla capacità dell'azienda di aggiornare i propri impianti, con la serie Terrecotte dell'Umbria nel 1991, presentati alla Fiera di Monaco di Baviera, e da quel momento praticamente si raggiunsero immediatamente i 16 milioni di euro di fatturato, e addirittura qualche anno dopo, nel 1985, si raggiunsero i 72 milioni di euro di fatturato. La crisi vi ha colpito? Ovviamente la crisi non poteva risparmiare Tagina, perché noi viviamo in questo mondo, viviamo in questo mercato, abbiamo reagito abbastanza bene. Lei, insieme agli altri con i quali appunto è stata costruita nel tempo questa impresa a più mani, si sente un eroe? Se non sbaglio era Federico II che diceva: beato quel popolo che non ha bisogno di eroi. Diventare paperless pensando all'ambiente. Francesco Milleri spiega come IDOC S.p.A. arriva a questi obiettivi attraverso soluzioni tecnologiche innovative per imprese e pubbliche amministrazioni che vogliono abbandonare l'uso della carta. L'azienda è leader nel Process Automation and Document Management per l'area amministrativa. Nel corso degli ultimi anni ha ampliato la propria offerta nei settori dell'Information Technology, della consulenza e del Business Process Outsourcing. IDOC si posiziona nel mercato dei sistemi per automazione che coprono tutto il processo, dall'ordine all'incasso, che si integrano in modo completo con i sistemi contabili aziendali, per fare di tecnologia virtù. È iniziato, diciamo, alcuni anni fa, dopo aver guardato come si stava muovendo il mercato dei sistemi amministrativi nelle aziende. I sistemi amministrativi nelle aziende stavano automatizzando tutto il processo contabile e logistico e stavano passando da sistemi fatti di componenti ai sistemi ERP, che erano questi sistemi integrati. Guardando questa evoluzione del mercato, era chiaro che prima o poi si sarebbe iniziato a pensare ad automatizzare anche tutti i processi cartacei che precedevano e seguivano la contabilizzazione e la logistica aziendale. Quindi l'idea era quella di togliere la carta dalle aziende e portarle completamente sul digitale. Questo fatto di diventare paperless, come si dice in inglese, è un fatto culturale, è stata un'idea che è nata per un vostro pensiero, per un suo pensiero che ha riguardato, diciamo, un'attenzione maggiore all'ambiente, oppure deriva da una sua formazione? La nostra idea era proprio aver trovato una domanda che iniziava a crescere è un'offerta che ancora non esisteva. Quanti ingegneri, quanti informatici, quante persone specializzate sono state necessarie per fare questo passaggio? Tanto per far capire quanto era difficile alcuni anni fa trovare queste risorse, noi siamo andati a pescare anche in università straniere, in particolare nell'università di Cambridge, dove si stavano muovendo i primi passi nelle tecnologie neurali, cioè nei motori di intelligenza artificiale, che poi sono stati da noi utilizzati per rendere automatiche tutte quelle operazioni che venivano fatte manualmente. I nostri sistemi quindi leggono i documenti contabili in maniera automatica, riconoscono le informazioni e le registrano in maniera automatica. Lei che cosa ha studiato? La mia è una formazione particolare, io ho una laurea in legge, un master in Bocconi, un PhD in finanza preso a New York, quindi una strada molto diversa dall'arrivo tecnologico del mio lavoro odierno. E gli altri? Gli altri sono ingegneri, gente laureata in economia, quindi consulenti che vengono dalla gestione logistica, amministrativa, abbiamo laureati in matematica, laureati in fisica, che poi insieme hanno costruito però una cultura del processo aziendale. Vi siete scoraggiati? Qual è stato il momento in cui avete impattato maggiormente con degli ostacoli? Quando abbiamo iniziato abbiamo avuto la fortuna di trovare alcuni grandi clienti, dei clienti innovatori che avevano nel DNA delle aziende la capacità di vedere in avanti, di vedere il futuro, e quindi ci hanno supportato. Allora eravamo una piccola azienda che muoveva i primi passi e quindi ci hanno aiutato a sperimentare insieme, perché queste tecnologie sono state affinate negli anni con proprio evoluzioni che sono proprie del mondo dell'elettronica, no? Il mondo dell'informatica cambia adesso mensilmente, in passato comunque di anno in anno avevamo più opportunità. L'ulteriore elemento che abbiamo dovuto superare era a volte la difficoltà di trasferire ai nostri clienti le potenzialità dei nostri sistemi, perché quasi non era creduto che si potesse fare certe cose. Quando noi andavamo dagli amministratori delegati di multinazionali e gli dicevamo: guardate, voi potete prendere tutto il vostro ciclo contabile, le vostre fatture passive, e i nostri sistemi le leggono e le registrano in automatico senza che le persone digitino, no, a mano le informazioni, all'inizio rimanevano scettici. Poi avevano paura che i nostri sistemi togliessero controllo ai processi e che quindi tutto passasse senza che ci fosse il controllo, la possibilità di bloccare le cose sbagliate, no? Proprio quando il processo si dematerializza va superato un gap culturale, no? Il contabile che ha bisogno della carta, del bollo, dell'approvato, della firma sulla fattura, ecco, tutta una serie di elementi che ancora sono presenti, eh. Troviamo oggi molto più nella parte pubblica, quindi nelle aziende pubbliche che non nelle aziende private, ma comunque è ancora diffuso questo attaccamento al supporto tradizionale che è la carta. E invece che cosa vi ha aiutato? Non solo il fatto di trovare nuovi clienti, che mentalità, oppure che altri vantaggi, qualcuno che ha creduto in voi, iniezione di capitale, cos'è che vi ha aiutato? Quello che effettivamente a noi ha aiutato, e sembra assurdo, è stato una difficoltà e un rallentamento dei mercati mondiali che ha costretto le aziende a fare riflessioni sull'efficienza dei propri processi, no? Nei momenti di difficoltà le aziende tendono a risparmiare. Noi eravamo lì in quel momento, alcuni anni fa, con i sistemi che permettevano di ridurre i costi amministrativi delle aziende anche del 30, 40, 50%. Questo è stato sicuramente un vantaggio immediatamente percepito dai nostri clienti, e il fatto che ci ha fatto passare da 1-2 installazioni l'anno alle 20-30 installazioni, e quindi a far crescere l'azienda e a permettergli anche poi gli investimenti necessari. In tutto questo lei si sente un eroe anche per aver tolto la carta e, diciamo, ridotto anche l'impatto ambientale di certi sprechi? Sicuramente non un eroe, credo che possiamo migliorare anche la qualità della vita in qualche maniera, no? Non solo all'interno dell'azienda, togliendo attività ripetitive, noiose, a basso valore aggiunto, quindi credo che possiamo portare dei benefici e dei miglioramenti che semplificano almeno la vita, se non la migliorano, sicuramente la semplificano per i cittadini e per i dipendenti delle aziende. Voci di piccola impresa, storie di eroi italiani per oggi si chiude qui. Tutte le puntate sono disponibili su internet www.radio24.it. Appuntamento al prossimo sabato con nuove storie e nuovi eroi. Un saluto da Anna Marino.